vedo bene due colori, il bianco e anche il nero che sfinisce. Ho l'auto che tossisce, la revisione, il revisionismo sulle rotonde, troppo terrorismo. Ed io ci giro, io ci resto. Il giorno dopo devo alzarmi presto per essere più molesto, perché mi alzo presto solo. Stessa sera, ma io non esco fino a primavera, l'inverno è lungo ed ho paura, ho le gomme lisce, ho un gatto che non mi capisce, sono avaro, sono egoista, questo si ritorce contro me, se siamo in tre, va bene, se siamo in quattro, uno lo maltratto, se siamo in cinque, uno lo do al gatto, in quel locale non ci metto piede, prima poi magari ci si vede, ci troviamo a casa mia, si sta in piedi o ci si siede, sì. Sopra e 20 sotto, ho aggiustato il super 8. Ho problemi a andare fuori, la notte sento i rumori, rumore bianco nel nero sparisce. Ho l'auto che non mi capisce, la revisione, il revisionismo sulle rotonde, troppo terrorismo sulle rotonde, troppo fascismo. Un'altra delle cose che non siamo riusciti, di cui non siamo riusciti a parlare la settimana scorsa, è la mostra di Vivien Maier a Palazzo Pallavicini. E ha inaugurato il 3 marzo ed è su fino al 27 maggio, per cui avrete tutto il tempo per andarla a vedere e ve lo consiglio caldamente, naturalmente. Vivien Maier, nata nel 1926 e morta nel 2009, è rimasta nell'ombra fino al 2007, quando John Maloof, figlio di un rigattiere, acquista un box a un'asta. Dalla scatola emergono effetti personali femminili di ogni genere appartenenti a questa donna, Vivien Maier, il cui contenuto è stato messo all'asta a causa di ritardi nel pagamento dell'affitto. Tra questi ultimi emerge anche una cassa contenente centinaia di negativi e rullini, tutti ancora da sviluppare. Dopo averne stampati alcuni ed averli mostrati in giro, Malouf si rende conto dell'immenso tesoro che ha tra le mani e grazie alla sua intuizione ed accurata divulgazione porta in breve tempo questa fotografa sconosciuta a essere apprezzata a livello mondiale. E come lo fa questa cosa? Questa è la cosa interessante, capito, che adesso vado a leggere nella biografia. Lui stampa alcune foto, John Malouf, e le pubblica su Flickr, ed è da Flickr che ottiene un interesse entusiastico e virale e l'incoraggiamento della community ad approfondire la sua ricerca. Così lui fa delle indagini sulla donna che aveva scattato e viene queste fotografie, viene a sapere appunto che Vivian Maier non aveva famiglia, aveva lavorato per tutta la vita come bambinaia, soprattutto nella città di Chicago. Durante le giornate libere e i periodi di vacanza era solita scattare foto della vita quotidiana di città come New York, Chicago e Los Angeles. La maggior parte delle sue foto sono etichettate come street photos ante litteram. E dunque Maier può essere considerato un antesignano di questo genere fotografico. In realtà ha un sacco di altri fotografi, sia del suo periodo ma anche precedenti, scattavano, diciamo, street photos. E la cosa interessante appunto di Vivian Maier è il numero di rullini. Se non sbaglio, adesso non trovo più nel comunicato stampa che ho davanti, non trovo più il numero, ma se non sbaglio stiamo parlando di 120.000 scatti, cioè, ovvero questa bambinaia fa dello scattare fotografie un suo stile di vita, diciamo, diventa veramente parte del suo vivere, e spessissimo la ritroviamo, come nella foto che troverete su www.coxospaziale.blogspot.com domani, che è la stessa foto che poi trovate quando passeggiate su per via San Felice e passate davanti a Palazzo Pallavicini, trovate questa bandiera che annuncia la mostra. Dicevo, lei ogni tanto si fotografa riflessa nei vetri delle vetrine, eccetera, e spessissimo, fra l'altro, all'interno di questi scatti c'è sia lei che altra gente, per cui diciamo che questa sorta di selfie ante litteram però è una sorta di fotobombing anche ante litteram, perché spesso appunto si vede che la sua intenzione è quella di fotografare se stessa ma anche con altre persone all'interno della foto. La mostra, che è organizzata molto bene con un bel numero di scatti, per cui merita sicuramente una visita a Palazzo Pallavicini, è divisa in varie sezioni: infanzia, ritratti, forme, foto di strada, autoritratti, colori. Fra l'altro, infatti, alla fine della mostra ci sono un po' di foto degli anni 70 a colori ed effettivamente mi è venuta molta voglia di vederne di più, anche per questa aura vintage, ma non solo vintage, anche che mi ricorda un po' la mia infanzia, visto che appunto alcune sono più o meno del periodo degli anni 70, dal 70 all'80, che sono il periodo in cui anch'io ero bambino. La mostra, dicevamo, è in più sezioni, leggiamo la parte dell'infanzia dal comunicato stampa. Vivian Maier aveva una forte empatia con i bambini, per carattere e per il lavoro che faceva, certo, faceva la bambinaia. L'infanzia è un filo che percorre tutta la sua opera, i bambini ne sono spesso i protagonisti, individualmente o in gruppo, fissando consapevoli l'obiettivo o ritratti con naturalezza in strada. Altrettanto importante per la Maier è il rapporto tra adulti e bambini, testimoniato dalle innumerevoli immagini che li ritraggono insieme, come se attraverso la fotografia potesse studiare il vincolo che li lega. E anche i bambini di cui si occupa furono suoi modelli e con loro passeggiava per le strade, scopriva nuovi luoghi, inscenava storie, svelava segreti oltre gli angoli e dietro le finestre delle vite che osservava. E guardando le sue foto, io mi immagino che Vivian Maier in realtà fosse una persona leggermente timida, ma molto interessata alle vite degli altri, alla vita umana. E questo appunto si denota dai piccoli atti di coraggio che lei compie, fotografando gente non troppo da lontano, perché comunque lei fotografava con una con una Rolleiflex Flex, se non sbaglio 6x6 come tipologia di rullino. E poi naturalmente si capisce anche un po' dalla sua storia quanto comunque fosse costoso questo suo hobby, perché come voi sapete, forse non lo sapete, ma cioè anzi tuttora fotografare in analogico è molto costoso, anzi forse adesso è più costoso che non in passato. Cioè sicuramente il momento di meno in cui fotografare in analogico era meno costoso sicuramente saranno stati gli anni 80 e gli anni 90, proprio per il fatto che fotografare era diventato un hobby di tutti, diciamo, e quasi nessuna famiglia era senza almeno una macchinetta fotografica, eccetera. Naturalmente invece alcuni di questi scatti, anzi molti di questi scatti, sono degli anni 50 e 60, e in quegli anni appunto scattare era costoso, per cui non è una sorpresa il fatto che moltissimi di questi negativi, di questi rullini, non fossero nemmeno sviluppati, non solo stampati. E appunto questo ritrovatore ci trova un sacco, cioè non trova nessuna stampa, trova semplicemente questo John Maloof trova solo dei negativi in questa scatola, che è un ritrovamento interessante. Adesso vado, nel frattempo che parlo, vado su Flickr e scrivo Vivian Meyer Flickr, andiamo a vedere, così dopo ve lo posto. Eccolo qua, Vivian Meyer Photographer, eccolo lì. Il Flickr effettivamente è notevolissimo. E parte appunto con, dopo ve lo posterò su www.coxospaziale.blogspot.com, e appunto la selezione che troviamo comincia con gli anni 50, per cui Chicago negli anni 50, gente di colore, bambini, un signore con la giacca e il cappello, e sembrerebbe quasi in mutande. Infatti c'è un altro signore molto ben vestito che lo guarda e dice: ma questo perché è in mutande? Un altro signore che allaccia le scarpe di un bambino, che invece guarda in macchina dicendo: cosa fai, fotografi questa scena inutile? E così via. Effettivamente le foto sono tante e sono molto interessanti. Ecco, questa non è in mostra, peccato, perché è probabilmente una delle ultime foto uno degli ultimi autoritratti di Vivian Meyer. Probabilmente preso in un bar dove lei si autoritrae con una Leica. Infatti lei utilizzava queste due macchine fotografiche, una Rolleiflex e una Leica. Dicevamo, la mostra è su fino alla fine di maggio, 27 maggio, gli orari d'apertura tutti i giorni, no, da giovedì a domenica dalle 11 alle 20. L'ingresso è 13 euro, ridotto 11 euro, ma fidatevi, questo a Palazzo Pallavicini, via San Felice 24, andateci perché la mostra merita decisamente. Coxo Spaziale! Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторе Тезе. Grazie al coro femminile di Stato della Radio e Televisione Bulgara, che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo. Più umano, più vero. Più umano, più vero. Un ballo sincero. Beh certo, vista la situazione internazionale dei campioni, noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya. Però amici, vi assicuro che ne valsa la pena. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa, ma dedicatevi al pipero. Popolo bulgaro, popolo di Milano, servizi segreti bulgari e di Milano, sentite come poppa il pipero. Ruotate di Pippero. Se in discoteca balli un Pippero, un Pippero. Siete fantastici, continuate voi da soli. Dovrei essere Fabio Di Camillo e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Cinzia Chen, stiamo cercando parcheggio, secondo te lo troviamo? Vediamo, di solito porto fortuna. Di solito porti fortuna, potremmo cercare in zona Mambo, perché stiamo anche cercando da mangiare. E vabbè, adesso qualcosa troveremo. E di che cosa... Nella trasmissione della settimana scorsa non abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Cos'altro dovevamo dire, Cinzia? Io ho preparato tanto su quell'artista che abbiamo preparato, però non è più bello di prendere questo argomento. Ah, ok, perché è passata una settimana e tutti... Come si chiamava lui? Zhou Ping. E tutti si sono dimenticati di Zhou Ping. Dopo essere andati a vedere su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link, ho messo un paio di link sul suo lavoro, tra cui questo video in cui lui va in giro a cercare, quello interessante, il video dove la performance dove lui segue una formica in piazza Tiananmen. E poi cosa succede in quel video? E lui ha trovato una formica che gira per terra, sicuramente, ovviamente per terra, che come i soliti insetti. Lui seguiva questa formica. E allora in piazza Tiananmen ormai ci sono tanti poliziotti, però con i vestiti romani, che non si vede, non si sa, non si riconosce. E loro controllano gente, se è normale oppure strana, oppure qualcuno che vuole creare qualche storia in piazza Tiananmen. E loro hanno notato questa persona che non è normale, che fa il giro senza motivo, che guardava la tela. E certo che loro non riescono a capire che sta fa questa. Quindi hanno seguito questa artista che segue questa formica. E dunque la performance in realtà è la polizia che segue l'artista, che segue la formica. Ecco, interessante. Stavo pensando che si potrebbe fare. Comunque siamo stati fortunati, abbiamo trovato questo parcheggio che è uno spot un po' nascosto, non vi racconto dov'è, che è uno degli unici parcheggi gratuiti in centro a Bologna, quasi in centro a Bologna, perché siamo proprio sull'orlo dei viali. Però da qua possiamo già cercare di qualcosa da mangiare e poi andare direttamente in stazione, perché poi parti e ci saluti. Vi lascio un'ultima canzone. Ah, ecco, lasciaci l'ultima canzone. Che canzone ci fai ascoltare stavolta? È una canzone di un band cinese, sempre, che loro prendono tanto dallo spettacolo di Nord-Est, che è una provincia molto importante della Cina, che loro c'erano questo spettacolo tradizionale che si fa anche per strada, per le feste. E così loro hanno preso questo stile, che è combinato con un po' di rock, qualcosa, e questa canzone. un po' occidentalizzato, diciamo. E come si chiamano loro? Questo pane si chiama Arshomengue. Arshomengue. Second hand rose. Una rosa di seconda mano. Ecco. E la canzone come si chiama? Zhen Hun Qi Shi. Zhen Hun Qi. No. Com'è? Zhen Hun Qi Shi. Zhen Hun Qi Shi. Quasi. Marriage Seeker. Marriage Seeker. Avviso per dire che sta cercando un partner di vita. Uno sposo. Uno sposo, una sposa. Ho capito. Mm-hmm. Uno sposo o una sposa. Ok. Ecco. Eh sì, perché il cantante è un maschio, per cui sta cercando una sposa. Però lui si veste sempre come una donna. Ah, ok, per cui sta cercando uno sposo. Insomma, comunque, ma dopo si è sposato il cantante, dopo questa canzone? Non lo so. Ah, ok. Vabbè, intanto ce l'ascoltiamo. Grazie, Cinzia Chen. Prego. Ciao. Ciao. 那天我心情啊实在不高兴啊找了个大仙儿我算了一卦他说我婚姻只有三年的长啊我那颗爱他的心有点慌啊混到了北京我混没了牵挂 谁害怕贫穷？谁害怕富有啊？谁会天长？谁不会地久？如果你恨那、啊、你就恨出个追求，如果你爱我，我会一丝不顾。 Arte contemporanea. Nei nostri fugaci tragitti in giro per la città siamo capitati al Mambo, dove questo duo, Anna Stuart Tovini e Vincenzo Chiarandà, altrimenti chiamati Premiata Ditta, hanno fatto una sorta di, come l'hanno chiamato, performance, no, un talk performativo, no, una conferenza performativa in cui hanno raccontato il loro percorso artistico, che comincia negli anni 80, quando appunto si, credo nell'84, si uniscono come due, come coppie nella vita per costruire un qualcosa di nuovo. Ascoltiamolo nelle loro parole. Questo era ieri sera al Mambo. Abbiamo chiamato You Are Here questa serata, e anche il lavoro che si trova all'entrata del museo, perché noi siamo un duo, abbiamo lavorato sempre insieme e sempre con una logica e con dei processi legati alla relazionalità, all'interazione, alla collaborazione. Quindi il messaggio You Are Here per noi ha anche un valore storico. Sì, un messaggio per noi molto importante, che abbiamo usato in tutti questi anni, sia come titolo di pubblicazioni, di progetti, di mostre, e sia proprio all'interno delle opere che abbiamo realizzato, sia come messaggio diretto che tra le righe, diciamo. E quindi, come vedremo questa sera, per noi questo You Are Here è molto di più che una semplice indicazione topografica. Praticamente You Are Here è una sorta di dispositivo artistico con il quale vogliamo mettere insieme sia questa serata, questo racconto che vogliamo fare, che riguarda la nostra storia, ma riguarda anche la storia di moltissime persone che si trovano qua stasera, che non ci sono più e che comunque sono state per noi molto importanti. Quindi il dispositivo You Are Here è costituito da una serata in cui si racconta una storia che soprattutto si sofferma sulle sue tappe, delle tappe bolognesi che sono state importanti, e su una serie di figure che non sono tanto bolognesi perché ci sono nate, ma bolognesi perché come noi hanno trovato qua dei modi di espressione, dei momenti e delle situazioni stimolanti. Quindi questa idea è diventata anche un'opera, con appunto la proiezione che abbiamo visto sopra all'entrata del museo, che noi abbiamo definito come un dispositivo capacitante, quindi come un qualcosa che è sì diretto a tutti voi che partecipate in questa situazione e a tutte le persone di cui ho parlato poco fa, i bolognesi diciamo, ma anche a tutti quelli che entrando nel museo noi speriamo si rendano conto che questo tu sei qui riguarda anche loro. Serve anche a responsabilizzarli, in un certo senso a fargli sentire che anche per loro esiste questo luogo pubblico. E in ultimo, il discorso You Are Here è anche costituito da un dono che noi abbiamo deciso di fare a una quantità di persone che appunto sono state importanti in questa nostra storia che ha attraversato Bologna. Ecco, come diceva Anna, quindi l'opera è quella scritta You Are Here che vedete sul pavimento all'ingresso del museo, come quello che si vede nelle mappe negli spazi pubblici, e c'è una didascalia con i nomi di tutte le persone cui noi abbiamo donato quest'opera, che però non si terranno l'opera in casa loro, perché la condizione che abbiamo posto è stata proprio questa, che l'opera fosse conservata al Mambo ed esposta all'ingresso, moltiplicando così il suo senso, accogliendo tutti i visitatori che entreranno in questo museo, che è uno spazio pubblico della città. E quando tornerete al Mambo, scoprirete che proprio davanti all'ingresso c'è questa nuova opera, una proiezione con la scritta You Are Here, che è un'opera comune di Premiata Ditta, organizzata da Premiata Ditta, ma con un discreto numero di artisti operatori dell'arte che appunto hanno firmato un contratto per lasciare quest'opera in esposizione permanente al Mambo e che ti dice che tu sei qui. Importanti ricerche di neuroscienza hanno dimostrato che non esiste un presente. Il presente psicologico in realtà fa già parte del passato. Noi abbiamo la percezione di un qualsiasi evento non nel momento esatto in cui esso accade, ma con un ritardo di circa 80 millisecondi dopo che è accaduto. Esiste quindi un impercettibile quanto rilevante lasso di tempo che separa l'umanità dal mondo reale. L'elaborazione neuronale di un fatto e la sua comprensione a livello cosciente sono separati dalla realtà out there, come la definiva Roti, da un salto temporale che si chiama tecnicamente post-diction. Ciò che chiamiamo presente in effetti è una narrazione che il nostro cervello ci sottopone nel processo di post-diction. Non ho avuto più tempo per dirti ti amo. Non ho avuto più voglia di stare con te. Lasciare le cose sospese per sempre e aspettare che tutto passi così. Non ho avuto più voglia di fare l'amore, ma restavo a guardarti lì anche per ore e il pensiero di colpo mi parte da qui ed arriva di nuovo tra le braccia tue. Non dirmi che è così per te, non dirmi che sai tu di me. Più volte che ho gettato la tua vita via, anzi la mia. Non ho avuto più tempo per tornare indietro. Ora sono lontano e tu sei con lui. Il tempo da sempre fa morire ogni cosa. Eppure che strano, l'amore non muore mai. Non dirmi che è così per te, non dirmi che sai tu di me. Più volte è capitato che ho gettato la tua vita via, anzi la mia. Eccoci qui in assenza di Fedra, naturalmente l'angolo della menzione è tutto arte contemporanea. Domani ci sono un sacco di cose, quasi tutte alle 18, per cui sabato 24 marzo alle 18 la Galleria De Foscherari è lieta di annunciare la mostra di Liliana Moro dal titolo Underflow. La mostra, la prima personale di Liliana Moro nella città di Bologna, presenta opere inedite realizzate con materiali e media diversi che vivranno attraverso lo spazio, la presenza umana ed il continuo mutare delle condizioni esterne. Underflow, flusso sotterraneo, allude ad un pensiero che attraversa lo spazio, tra sabbia di fiume, acqua, terracotta, forme e disegni. Si riferisce alla terra, alla natura, al nostro passaggio, o meglio, alla vibrazione del nostro passo, che modifica la percezione dello spazio nel bene e nel male. Sabato 21 aprile alle ore 18 avrà luogo, sempre presso la Galleria De Foscherari, la performance Buongiorno, realizzata in collaborazione con Live Arts Week e inclusa nel programma del festival. Questo è domani alle 18 alla Galleria De Foscherari in via Castiglione 2B a Bologna. Sempre a Bologna, sempre alle 18, Di tutto resta un poco, opere di Dario Coletti e Luca Coser con un racconto di Gianluca Morozzi a cura di Patti Campani, e questo è a Tatler in via Rialto 29-2 a Bologna. Di tutto resta un poco, non molto, da un rubinetto stilla questa goccia assurda, metà sale e metà alcol, salta questa zampa di rana, questo vetro di orologio rotto in mille speranze, questo collo di cigno, questo segreto infantile. E questa era una citazione da Residuo di Carlos Drummond de Andrade. Domani appunto alle 18 al Tatler in via Rialto 29/2. Invece sempre alle 18, sempre domani, questa volta non a Bologna ma poco fuori, a Bazzano, all'ex Minicop e Casa del Popolo della Val Samoggia, abbiamo Flavio Favelli che ci presenta Serie Imperiale a cura di Elisa Del Prete e Silvia Litardi. Serie Imperiale è un progetto dell'artista Flavio Favelli a cura di Elisa Del Prete e Silvia Litardi, promosso dall'Associazione Culturale Nosadella 2 su commissione pubblica della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, Val Samoggia, Bologna, vincitore della seconda edizione di Italian Council 2017. Ideato dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, Ministero dei Beni e Culturali del Turismo. Basta, non so nient'altro. Per cui, ah no, non è vero, scusate, saranno presentati al pubblico i due wall painting site specific del progetto serie imperiale. Le opere sono realizzate in due luoghi simbolo del centro di Bazzano, la ex Casa del Popolo e la ex Minicop, e si inseriscono nella vita e nella cultura emiliana quale prima opera dell'artista per il territorio in cui vive e lavora da più di 15 anni. L'inaugurazione appunto è domani alle 18, ex Minicop e Casa del Popolo, via Cerè 12, Valsamoggia a Bazzano. Per info www.frb.valsamoggia.bo.it. Naturalmente trovate anche tutto su www.coxospaziale.blogspot.com. Torniamo a Bologna, torniamo sempre a domani, sempre stavolta alle ore 19, non credo che ce la fareste neanche con, forse con il teletrasporto, ma a farle tutte, adesso ci proverò io domani, vedremo come va. Ad adiacenze la mostra Cold Current degli artisti Margaret Kolstad-Brekke, Jonas Gazelle, Dylan Marsh e Eleanor Clare, a cura di Helen Ford e Manuel Portioli, con il supporto di Bergen Commune e Bill Künste, scusate, ma io il tedesco non lo so. Attraverso la mostra Cold Current, visitabile dal 24 marzo al 28 aprile 2018, i due curatori vogliono far conoscere al panorama italiano le nuove ricerche ed espressioni artistiche che si stanno formando in Norvegia, attraverso l'esposizione di opere il più possibile eterogenee tra loro. Queste ad adiacenze, queste da non perdere secondo me, ad adiacenze in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna, www.adiacenze.it. Invece alle 19.30, sempre in centro a Bologna, Squadro inaugura Amabili Resti, personale di Gabriella Giandelli, in mostra disegni originali e serigrafie in tiratura limitata. E questo è allo Squadro, www.squadro.it, in via Nazario Sauro 27 a Bologna. E così abbiamo finito il nostro angolo della menzione. Tutte mostre da andare a visitare, assolutamente. Adesso vedrò se passare per Bazzano oppure buttarmi nel groviglio del centro a vedere, e vedere domani che cosa succede. Molto bene, a questo punto direi che la puntata può anche concludere con le solite fantastiche parole del nostro direttore. Noi salutiamo Fedra e ci auguriamo che nella prossima puntata la avremo con noi. Anzi, vi prometto che se Fedra non si fa sentire per la prossima puntata la chiamiamo e almeno la sentiamo per telefono. Questo era Coxo Spaziale, questo era Stefano W. Pasquini e ci sentiamo venerdì prossimo, come al solito, su Radio Città Fujiko dalle 20 alle 21. Ciao, ciao, ciao. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.